Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda. Oggi parleremo di una cosa davvero interessante e complessa. Cominciamo con questo brano, vediamo se riuscite a capire qualcosa. Ma vabbè, non parliamo, parliamo forse di funk anni 70, parliamo di cinema, perché insomma l'avete capito, questo era un frammento di una colonna sonora. Indecent Exposure, Ronnie Romanovich, era il 1981. Ma insomma, lo faccio dire a te, Banzo, di cosa parleremo quest'oggi. Innanzitutto ti auguro buon pomeriggio e ovviamente bentornato, ergonomico più che mai. Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Diciamo che ultimamente ci abbiamo preso gusto con questi brani iniziali che non lasciano intuire molto sul contenuto. Anche in questo caso c'è un legame fortissimo, ma praticamente impossibile da dedurre se non si conosce la storia a fondo. Esatto, esatto. Perché questo, Steven, questo brano era il tema portante di un film pornografico, appunto hai detto tu l'anno del 1981, titolo originale era Indecent Exposure, ma in Italia è conosciuto come Laila, Profumo di Femmina. È una puntata sul cinema pornografico? Assolutamente no. Però diciamo che quest'oggi prendiamo le mosse, come il libro del quale parleremo, da un evento drammatico che ebbe luogo proprio in un cinema pornografico. Torniamo al 14 maggio 1983, il luogo è il cinema Luci Rosse Eros di Milano, e in quella circostanza un rogo uccide 6 persone, ferendone 32. Un evento che viene rivendicato da una sigla che all'epoca era già nota agli inquirenti, Ludwig. Se conoscete la storia sapete di cosa sto parlando, però è una storia che non è mai stata veramente del tutto risolta. 2 persone furono condannate per una serie di omicidi e azioni di questo tipo, azioni più stragiste diciamo, cioè Wolfgang Abel e Marco Furlan, e diciamo che la narrazione che nel corso degli anni è stata la prevalente era quella della follia de, cioè che questi due si fossero messi a compiere questi gesti, ma incoraggiati l'uno dall'altro, diciamo. Ma la realtà forse è più complessa, e oggi ne parleremo con la nostra ospite, Steven. Eh sì, effettivamente, perché l'anno scorso è uscito un libro che racconta benissimo tutte queste questa storia, la ricostruisce. Un libro è uscito per i tipi di Einaudi, e noi parleremo con l'autrice Alessandra Coppola. Il libro si intitola Il Fuoco Nero, storia della banda neonazi Ludwig, che appunto ricostruisce tutta questa storia. Ma prima di e lo fa a partire proprio dall'incendio del cinema Eros, quindi esatto. L'ordine non è cronologico, perché le azioni di Ludwig erano cominciate alcuni anni prima. Eh sì, e tra l'altro un piccolo dettaglio sul brano che ci siamo mandati, che secondo me è una cosa interessantissima, insomma a me fa un po' impazzire, è che questo film, intitolato in italiano Laila Profumo di Femmina, è stato diretto da Gary Graver con lo pseudonimo di Robert McCallum, e Graver era stato per tanti anni uno dei più fidati collaboratori addirittura di Orson Welles come direttore della fotografia. Comunque insomma non abbiamo tanto tempo. Finirà a girare 135 film porno, ecco. Questa cosa fa scoppiare la testa rapidamente, perché sennò ci mangiamo la puntata raccontando queste cose che sono comunque interessantissime. Banzo, noi adesso andiamo ad ascoltarci un brano più recente del 2023 di Colapesce di Martino, Ragazzo di Destra, tratto dall'album Lux Eterna Beach. Sì, il titolo è una citazione di un'intervista a Ignazio La Russa, dove diceva: sono felice che un ragazzo di destra come me ce l'ha fatta, se ha detto questo ha sbagliato il congiuntivo, ed è finalmente al governo. Ecco, vabbè, insomma, la consecutio temporum. E da qui partono, elaborano per raccontare una storia che è una storia di paura e solitudine, nelle loro parole, perché beh sì, effettivamente per abbracciare quelle idee bisogna sentirsi molto isolati e per trovare sostegno in figure simili, vabbè, ma comunque ascoltiamo il brano che è molto bello e poi passiamo all'intervista. Eccolo qua, Ragazzo di Destra con la Pesce e Di Martino. Giudicare, metti la divisa a lavare, ti giuro nessuno ce l'ha con te, facile caricare, c'è un bambino dentro di te che è ancora convinto di dover dimostrare a costo di farsi male. Tutto solo nel tuo pomerino, senza la tua squadra, tu chi sei? Andate tutti via, adesso faccio un muro, non voglio più vedere dei bravati alle parate, l'invaso li fa con gli uomini, li farei tutti fuori. Amore, ti difenderò col tirapugni d'oro, mi darai un figlio naturale la notte di Natale, mentre cade giù la neve. Facile, non è vero. Ed è ora con noi Alessandra Coppola, giornalista del Corriere della Sera da tanti anni, dal 99, si è occupata di esteri tra Medio Oriente, Francia, Sud America, ma anche di storia italiana, Milano, migranti, seconde generazioni. È vice caporedattrice, cura i podcast del Corriere, scrive per La Lettura, altri sono anche i suoi libri, ricorderei del 2013 Per chiare lettere, Per il nostro bene, Viaggio nell'Italia dei beni confiscati, ma oggi con lei parliamo soprattutto della sua ultima fatica, come sapete, Il fuoco nero, storia della banda neonazi Ludwig, uscito per Einaudi lo scorso anno. Innanzitutto Alessandra, buon pomeriggio e benvenuta qui a Zibaldone. Buon pomeriggio e grazie per l'invito. No, è un piacere parlare con te, parlare di un tema così dimenticato e di un libro così bello, Il fuoco nero. Cominciamo subito dal tuo libro, perché il tuo libro non segue l'ordine cronologico dei delitti o delle azioni dimostrative di Ludwig, ma comincia in media res, no? E parte da Milano, lontano un po' da quello che è forse il centro nevralgico di questa storia, che è situato piuttosto a Verona. Ci puoi spiegare il perché di questa scelta? E in fin dei conti è corretto anche dedurne che tu sia arrivata alla storia di Ludwig seguendo, diciamolo così, altre piste? Sì, sì, è corretto, ma non solo, diciamo, perché la pista partiva da Milano, soprattutto perché la strage che Ludwig compie a Milano, 6 uomini uccisi nel maggio dell'83 in questo cinema a luci rosse che viene incendiato, un momento di svolta importante, il momento in cui e del peso che deve avere Ludwig nella storia nera d'Italia, diversamente da come è stato archiviato, no? Emerge una verità che, o comunque una ricostruzione che si accumula negli anni, di archivi, di documenti, che allarga di molto la verità giudiziaria, la storia come è stata chiusa negli anni 90, cioè di una coppia, Wolfgang Gabel e Marco Furlan, quindi due killer, come se fosse una coppia di serial killer, che ha compiuto alcuni orribili delitti, tra cui questa, in particolare questo è il più grave, questa strage a Milano. La storia va riscritta come quella di un gruppo terroristico che neonazista che compie queste atrocità, ed è come una scintilla dell'incendio, di quello che era successo precedentemente e quello che noi nella storia abbiamo, nella storia recente d'Italia, abbiamo segnato come strategia della tensione. Ecco, Ludwig non è lontano da quello, e l'episodio di Milano è l'episodio più grave, più struggente, e colpisce come una strage di queste dimensioni, che diventa, rileggendola, la più grave strage politica a Milano dopo Piazza Fontana, sia stata completamente rimossa, archiviata, vittime dimenticate, anche un po' per il fatto stesso di essere spettatori di un cinema porno, no? Questo è incredibile, che questa visione, diciamo, di questa vergogna che aleggiava attorno alle vittime allora, ce la siamo portata poi avanti fino ad oggi. Infatti, tra l'altro, abbiamo fatto anche una rapida, no, consultazione su Wikipedia, che, insomma, Wikipedia lo sappiamo, bisogna prenderlo con le pinze, però la Wikipedia italiana descrive a tutt'oggi Ludwig all'intestazione della pagina come serial killer, no? Lasciando appunto fuori altre ipotesi interpretative. Ecco, in fin dei conti è ancora questa, vero? La percezione che chi non ha una conoscenza approfondita della vicenda ha, ossia, insomma, tu nel sottotitolo lo dici molto chiaramente, storia della banda neonazi Ludwig. Ecco, in realtà invece si è voluta far passare come un'altra cosa, e ancora, no, la vox populi è quella, come per altri casi della storia italiana, soprattutto degli anni della Prima Repubblica, forse? Diciamo, questa è proprio la ragione per cui io ho scritto questo libro, perché quando ho iniziato, in realtà anche perché ho incontrato una persona che poi chiamo il testimone Sigma all'interno del libro, che mi ha raccontato alcune cose, quando ho iniziato a mettere insieme i pezzi e concentrandomi a partire proprio, come dicevamo, dal cinema Eros, ho capito che la storia poteva essere riscritta, anzi forse doveva essere riscritta, perché, come ti anticipavo, quello, la conclusione a cui è arrivato il processo è che fossero soltanto in due. Questa conclusione è poi smentita da molti elementi, te ne dico uno solo per diciamo così, lo lancio per far capire quanto questa visione non è solo mia, ma è condivisa ormai dagli storici, e dagli stessi magistrati, no? che hanno anche riaperto il caso. Io ho fatto riaprire a Milano il caso del cinema Eros per la strage di Piazza della Loggia, quindi nel 74 a Brescia. È in corso un nuovo processo, ci sono due nuovi imputati che sono legati a questo mondo veronese da cui venivano i due killer di Ludwig. Uno di questi due si chiama Marco Toffaloni, che è chiamato Tomaten perché arrossiva e quindi per queste gote accese. Questo Tomaten è stato visto in Piazza della Loggia, esiste una foto, è stato indicato da testimoni come l'esecutore materiale, è stato condannato in primo grado lo scorso 30 aprile come esecutore materiale, era amico di quelli che sono stati chiamati i serial killer di Ludwig. Non solo, questa sentenza di primo grado nelle motivazioni dice: ha fatto la strage di Piazza della Loggia, probabilmente faceva parte di Ludwig, a dimostrazione che ormai l'accumulo di materiale, di testimonianze, di elementi porta a dire anche i magistrati che i Ludwig non erano due. Dunque non è più la storia di un serial killer, ma si tratta di terrorismo e le vittime vanno riconosciute come vittime di terrorismo. Sì, e appunto in un contesto come quello che tu ricordavi, quello degli anni 70, della strategia della tensione, insomma, dove oltre a Piazza della Loggia e Piazza Fontana abbiamo purtroppo tanti altri casi, quindi è molto importante, no, appunto contestualizzare e riuscire a dare anche la caratura politica di questi delitti. Ascolta, tornando un po' ai due protagonisti di questa vicenda, no, o almeno i due conosciuti della banda da Ludwig, due ragazzi veronesi, diciamo insomma considerati di brava famiglia, insomma con deliri, si dice, no, un po' l'interpretazione dominante, neonazisti, molto privati. Ecco, le origini e le frequentazioni tedesche di uno dei due condannati per il caso, Wolfgang Abel, quanto pensi che abbiano pesato? Ma secondo me è molto importante il legame con la Germania. Wolfgang era tedesco, di recente, e i ragazzi frequentavano in particolare Monaco di Baviera. Uno degli attentati, l'ultimo attentato commesso da Ludwig, è commesso a Monaco di Baviera, muore questa cameriera di origine italiana che si chiamava Corinna Tartarotti. E Ludwig, lo stesso Ludwig, su questo diciamo non vi è certezza, ma la mia interpretazione diciamo raccoglie anche elementi convergenti, è che il nome venga proprio da Ludovico II di Baviera, e quindi il Monaco è certamente centrale nella follia anche politica di questi personaggi, e quindi sicuramente ha un ruolo importante. Il neonazismo acclarato, gli stessi Ludwig proclamavano di essere neonazisti nei loro volantini di rivendicazione, nei loro messaggi di rivendicazione, e c'è tutta una corrente, come tu certamente saprai, di rinascita del nazismo dopo la fine del Terzo Reich, che diciamo prende questa spinta soprattutto legata all'SS, a Himmler, di impostazione, diciamo prende il filone esoterico, elitario ed esoterico del neonazismo e lo sviluppa arrivando fino a questi Ludwig. Tu infatti parli, no, e dai un titolo a un capitolo che è il 12, appunto, di Comitiva dei Maghetti. Sì, i Maghetti, questo anche a dimostrare, adesso non vorrei che sembrasse troppo complicato, ma in realtà questo filo si dipana. Diciamo il nucleo con cui rinasce questo neonazismo in Italia è cioè la base è il Centro Studi Ordine Nuovo, poi diventa Movimento Politico Ordine Nuovo, poi viene disciolto nel 73 per ricostituzione del Partito Fascista. Questo gruppo è anche un gruppo centrale di esecutori, ma anche di autori, di partecipanti attivi alla strategia della tensione all'epoca delle stragi italiane. Questi possiamo considerare una sorta di fratelli maggiori di Ludwig, ed erano gli stessi novizi a individuare questo gruppo di cui facevano parte Abel e Furlan, e poi una serie di personaggi di cui io non faccio i nomi perché non sono mai stati coinvolti, ma che diciamo sono conosciuti, e li indicavano anche un po' in maniera così per prenderli in giro, i maghetti, perché avevano una particolare, diciamo che su di loro la corrente esoterica magica faceva particolare presa, quindi leggevano Genon, leggevano Evola, ma questo bizzarro esoterista Kremmerz, no? Che poi era di Portici ma aveva adottato questo nome, seguivano gli insegnamenti di un professore che è stato anche poi professore trentore di novisti, quindi c'è un legame sicuramente di prossimità, di studi, di affiliazione, di legami. Poi magari Ludwig, ecco, non facevano parte della strategia atlantica, della, certo, dei golpe e delle trame nere ordite a livelli più alti. Però sicuramente di questo si sono nutriti. Ma anche perché poi, no, la porosità delle frontiere di tutti questi settori era molto labile, no? Per quanto poi insomma Rauti ruppe almeno fino allo 69 con Ordine Nuovo, con l'MSI, poi rientrò, però alcuni non lo seguirono, no? Nell'epoca almiraldiana. Esatto. E poi certo, insomma, ecco, Avanguardia Nazionale, eccetera, tutto questo sottomondo di sigle neofasciste, neonaziste, eccetera. Però questo in realtà, secondo me, pone una questione che è molto importante, che è anche le complicità implicite o esplicite dell'MSI. Allora, su questo diciamo io non posso dire delle cose precise, però come tu sai, quando Rauti rientra nell'MSI, diciamo molti forti sono i sospetti che in realtà, come nelle sue stesse parole, è la necessità di un ombrello istituzionale, e diciamo non è che recide i legami, certo, con quel mondo precedente. Dall'MSI vero e proprio, quindi dai giovani anche della Missini, che a Verona erano fortissimi in quegli anni e che avevano anche proprio fisicamente la sede molto vicina, sono tutti luoghi fisici molto accorpati, molto vicini, di cui appunto è difficile proprio distinguere. Può essere che hanno frequentato questi ambienti, può essere che hanno avuto amici, che hanno avuto conoscenti, che sono andati a sentire, che ci sia un legame diciamo diretto, non lo conosco, non so dirlo, mi sembra più una cosa di ambiente e suggestione, sì, e poi di appunto di un modo di cultura comune, però da quale poi i ragazzi poi prendono pieghe completamente, sì, diverse, per cui stiamo parlando di assassini e di una certa ferocia, e poi magari appunto non è detto che queste cose appunto coincidino con altri percorsi, ecco. Sì. Sì. E pensando anche un attimino al presente, no? Voglio dire, insomma, l'ascesa delle estreme destre, dal trumpismo a Vox, insomma, al caso italiano, in Ungheria, insomma, ormai dovunque. Tu parli appunto, racconti, recuperi, no? Questa storia di una destra spiritualista, tradizionalista, evoliana, no? Che in alcuni casi, appunto, come Ludwig accetta, no? E pratica il terrorismo. Ecco, come si legano queste cose? Come giudichi questo settore della destra rispetto a quello che adesso vediamo un po', insomma, in auge in tutto il mondo? Ossia, si tratta di un'esperienza, quella di Ludwig e di altri settori che abbiamo anche in parte nominato, no? Ordine Nuovo e così via, elitaria, sotterranea, carsica, o in realtà, insomma, alcuni elementi di questo armamentario ideologico hanno fatto anche breccia nel discorso politico delle estreme destre in voga oggi? Anzi, mi interesserebbe avere la tua opinione, ma io ci vedo una continuità. Esiste un filo, no? Come tu dicevi, è un fiume carsico che però riemerge dello stessa fonte. Cioè, quello che mi colpisce è che oggi anche le letture sono molto simili, continuano a essere le stesse, i martiri, no, di questo mondo sono sempre gli stessi. Cioè, mentre la sinistra, e anche nelle sue anche esperienze estreme, tranne qualche episodio, però diciamo attinge anche, è cambiata negli anni, ha avuto delle varie evoluzioni, dei cambiamenti, delle nuove parole d'ordine, eccetera, c'è un, mi sembra, un filo di continuità rispetto proprio che riporta direttamente alle esperienze del fascismo e del nazismo, e che non si esaurisce e prende altre pieghe, altre ambizioni, ma anche nel linguaggio, no? A volte mi sembra che ci siano molti elementi di contatto, quindi io ci vedo una forte continuità, anche per questo l'interesse a affrontare, a studiare questi anni, proprio per... E poi c'è un altro elemento, secondo me molto importante, che ci sono tante persone ancora oggi che non hanno parlato, non hanno raccontato, hanno protetto, c'è una di solidarietà che si trasmette anche e che caratterizza molto questo pezzo di storia e lo riporta anche al perché continuiamo oggi, no, a scavare e a cercare una, no, uno dei due, per esempio, di questi due colpevoli, l'altro è morto ma aveva già iniziato a dire delle cose, e ce n'è uno che invece è rimasto sempre in silenzio, sostiene di essersi pentito, ha incontrato Papa Francesco, così, ma non ha mai raccontato quello che potrebbe, ed è certamente stato protetto anche da una rete nera. Ma certo, ma comunque sui segreti, i misteri d'Italia, soprattutto negli anni della Guerra Fredda, no? Si continuerà a scriverne, a fare ricerche, è un tema, io direi, infinito, no? Insomma, da quando Lucarelli poi l'ha convertito in una serie di, no, di programmi di best seller, è infinito questo tema. Sì, è un tema possibilmente infinito, anche perché appunto non siamo stati mai aiutati da grandi testimonianze. Oggi anche per questa storia, per Piazza della Loggia, come ci dicevamo, per altri, ogni tanto Bologna, esatto, per Bologna, innanzitutto c'è una grande forza i familiari delle vittime, che purtroppo per Ludwig non c'è, per quella vergogna, per quella quella essere considerati di serie B, per quello che ci dicevamo prima, ed ha condizionato moltissimo la mancanza di verità su questa storia. E poi appunto man mano emergono delle nuove testimonianze, perché probabilmente dei personaggi che facevano più paura sono morti, altri sono diventati inoffensivi, e alcune voci cominciano a trovare il coraggio. Però appunto, come ci dicevamo, è un ambiente fermamente dominato dall'omertà, addirittura dei Ludwig raccontavano qualcuno che ha detto qualcosa, ma molto limitatamente, che esisteva un patto di sangue e chi parla muore. Sì. Ascolta, ne parlavamo anche all'inizio, no? Sulla maniera di approcciare questa questione, e quindi come pensare alla scrittura di un libro, che è sempre un'operazione bellissima, ma a volte anche molto complessa. Ecco, nel tuo caso hai puntato più a una ricostruzione storica, o invece sei andata più che altro a cercare di colmare le lacune delle indagini ufficiali, di quello che si sapeva, delle ricostruzioni, dei vuoti e così via? Ah, io sono giornalista e diciamo, mi sono in questo, ci tengo a restare nel mio ambito, perché appunto non oso entrare in settori che non sono i miei, quindi ho fatto un lavoro propriamente giornalistico, costruendo un libro, però che ovviamente ha delle ibridazioni, diciamo, un po' con la cronaca giudiziaria, un po' con la narrativa, un po' con la storia, con la ricostruzione storica, però l'ho costruito soprattutto alimentandolo con fonti, quindi ho fatto molte interviste, molti incontri, e con materiale di atti giudiziari. La fortuna di questi nuovi processi che citavo prima, con il processo di Piazza della Loggia, che si è tirato dietro una quantità di atti raccolti negli anni, testimonianze, indagini precedenti che non hanno portato a processi, ma che invece sono diventate molto interessanti a leggerle oggi, e diciamo, con l'aiuto di qualcuno che ha potuto aiutarmi a districarmi su queste 230.000 pagine, vero 230.000, non un modo di dire, pagine di atti giudiziari, ho tirato fuori appunto gli elementi che poi hanno composto il mosaico. Quindi l'ho fatto con appunto con spirito giornalista, con cui tutto è vero, ma con un interesse a elementi che appartengono all'attualità, alla cronaca quotidiana. Per esempio, una delle spinte che mi ha portato a partire dalla storia milanese e ad addentrarmi poi da lì, ci ho fatto anche un podcast che si chiama Cinema Eros, è stata anche la prima visita che ho fatto, no? Perché poi una caratteristica diciamo del lavoro giornalistico è anche l'esperienza in prima persona, l'andare, no? sul posto. La prima cosa che ho fatto, sono andata e ho visto che era diventata una chiesa evangelica brasiliana e questo elemento, come capisci, mi ha dato una suggestione e un'idea anche di, no? Di lavoro che un po' a volte i libri si scrivono anche un po' da soli, no? Ti chiamano con delle storie, delle suggestioni che capisci che meritano di essere scritte. Sì, sì. Guarda, un'ultima domanda prima di salutarci, e ovviamente se non facciamo spoiler, però c'è una cosa, prima parlavi dell'opacità, che dici, sì. Ma perché questi qua si sono chiamati Ludwig, no? È una questione che, insomma, ci sono poche interpretazioni o comunque, insomma, non si è chiarita questa vicenda. Ecco, tu nel libro ne parli, magari non facciamo spoiler, ma magari diamo agli ascoltatori qualche chicca, perché così, insomma, si leggano il libro, che il libro, insomma, va letto innanzitutto. Grazie. No, si lega alla domanda precedente che mi hai fatto su Monaco di Baviera. Ecco, io Ludwig credo che fosse appunto Ludovico II di Baviera, ma anche per una suggestione in particolare, e cioè che in quell'epoca, nel momento in cui loro si formano e decidono di fare questa follia, andava molto di moda, e tutti loro avevano visto il film di Luchino Visconti Ludwig, interpretato da Helmut Berger, che è un po' la rappresentazione dell'ariano, no? Questo me lo raccontavano anche amici veronesi che mi hanno aiutato in questo percorso e che sono più della generazione degli assassini, e mi dicevano, in effetti noi non solo tutti avevamo visto questo film, perché sì, insomma era molto, ci siamo andati molti a vederlo, non solo eravamo molto legati a Monaco di Baviera anche per le gite scolastiche, per gli scambi, per la tradizione che comunque lega Verona al mondo germanico, diciamo, dall'Austria poi alla Germania, ma per noi quell'attore lì in particolare era proprio l'ariano. Poi certo, forse non sapevano, no, le sue simpatie dal punto di vista ma io credo che ci fosse anche questo elemento, cioè parli dell'omosessualità, certo, e della... di Berger. Ma guarda, c'è questo elemento molto forte, anche una sorta di torbida, così confusa repressione sessuale, sì, che poi invece si manifestava anche in sorta di riti e amplessi sotto la svastica, sì. Però c'era questa componente anche molto forte in un gruppo in realtà tutto di maschi, ad esclusione di una sola donna, quindi non è escluso che ci fosse anche questa suggestione. Poi certo non avevano capito la lettura di Visconti, però questo ecco, senza dubbio. Sì. Ascolta Alessandra, grazie davvero di essere con noi. Ricordo ai nostri ascoltatori Il Fuoco Nero, storia della banda neonazi Ludwig, uscito l'anno scorso per Einaudi. Alessandra Coppola, giornalista del Corriere della Sera, grazie per averci accompagnato. Grazie a voi. She get me a black and white before she went. appello agli iraniani di Trump, che offre falsi investimenti in criptovalute. Nessuno può credere al successo che stiamo avendo. Si poteva farlo prima. Il ministro degli esteri italiani invita al pranzo di Natale del 2050 gli italiani bloccati negli stati del Golfo. Si infiamma il dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia. Meloni sostenere ogni iniziativa che possa condurre a un allentamento delle tensioni, implacabili con chi sbaglia. E il vota contro. A Kyoto, in Giappone, nasce il primo poliziotto robot. È un umanoide basato sull'intelligenza di Carmelo Cinturrino, che offre consigli spirituali e trasmette gli insegnamenti buddisti con la pistola mentre prende denaro da uno spacciatore. Salvini, io sono in modalità Zen. Sono una soldatessa americana, mi sono innamorata di te. L'ennesima difficile missione diplomatica negli stati del Golfo. Il ministro Crosetto ha mascherato con un missile sotto l'abito che in pochi secondi prende fuoco. Non ci sono leggi chiare, denuncia, e dobbiamo quindi difenderci. La famiglia nel bosco ha lanciato stamattina un imponente attacco con missili ipersonici e droni, colpita anche una scuola. Vogliamo semplicemente un luogo dove vivere in pace. E sono tornate anche le ultimissime del nostro Fausto De Salvia, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, insomma, telegrafico, però secondo me c'è da fare qualche commento su quello che ci raccontano le ultimissime quest'oggi. Beh, molti missili nell'edizione di oggi, questo sicuramente. Io mi sto chiedendo come facesse Crosetto a nascondere un missile sotto l'abito, soprattutto anche se poi ha preso fuoco, quindi la sorpresa diciamo che è sfumata. Però è una cosa che mi fa pensare un po', ricordi il celeberrimo, o per meglio dire famigerato, motorino introdotto a San Siro? Sì. Ecco, una cosa di questo tipo, che è incredibile, come ha fatto a nasconderla? Poi c'è la famiglia nel bosco che, alla ricerca di una vita tranquilla, lancia un attacco missilistico, che è esattamente quello che farebbero tutti coloro che sono in cerca di tranquillità. Penso che anche tu, quando hai voglia di staccare la spina, ecco, ti rivolga appunto a attacchi missilistici, chiunque d'altronde. Ma soprattutto poi una famiglia che non manda i figli a scuola lancia i missili sulle scuole, ecco. Comunque, chiudiamo qui questa vicenda. E prima ci siamo ascoltati un brano del 1983, Mazimba Bele di The Unknown Cases con Ribop Kvak Kuba, che è un brano che abbiamo scelto perché spopolava in quegli anni in una famosa discoteca del Mantovano a Castiglione delle Stiviere, il Melamara, che dove proprio il 4 marzo del 1984 vennero arrestati, cercarono Furlan e Abel di commettere un altro delitto, come era successo con il cinema Eros, in quel caso fortunatamente in vano. Il Melamara era una grande delle discoteche che stavano dando grande splendore all'epoca in Italia. Poi insomma De Michelis in quegli anni poi scriverà il famoso libro sulle discoteche un po' dopo. Detto ciò, brano di due musicisti elettronici tedeschi di Colonia, Helmut Zerlett e Stefan Krachten, accompagnati alla voce da un grande cantante percussionista ghanese, Kvakuba, che aveva lavorato anche con i Traffic e i Cane, che sarebbe morto purtroppo di emorragia nel gennaio dell'83. E noi andiamo subito a bomba, Banzo, con un altro brano che in quegli anni stava spopolando nelle discoteche, soprattutto italiane ma non solo, di un napoletano doc. Sì, sono tutti brani che abbiamo recuperato da scalette reali del Melamara, quindi sempre grazie a Fausto, grandissimo scavatore degli archivi. Questo brano di Tullio d'Episcopo, io non so come pronunciare il titolo, Steven, perché non viene menzionato nel brano, mi viene a pronunciarlo alla spagnola, Stobajón, però forse è Stobajón, non lo sappiamo. Sì, più alla napoletana, direi. Sì, forse sì, non credo ci fosse un ispanismo, perché il testo è tutto in napoletano. Ed è già quella fase in cui d'Episcopo alterna alla carriera di percussionista e batterista quella di cantante. Insomma, io qualche anno dopo ricordo Andamento Lento, che beccai in diretta, forse la ricordi anche tu. Questo brano, però, per rimanere sul pezzo, è firmato da Pino Daniele anche alla chitarra. Si potrebbe definire un rap ante litteram, non so, lo lascio un po' all'interpretazione individuale, e esprime una napoletanità leggera e scanzonata, con un arrangiamento molto variegato fra percussioni, basso sincopato, Hammond e tromba. E ce lo andiamo a ascoltare. Su, se non ti sei accorto con che uno ti c'ha, la gente che ti guarda se la fotte lì, ma non è come brutta sta comalerina. E allora uè, oh, tieni la mente, per chi non si fa male riesce a me, e si pierda la pacienza su un guai e mo, e allora che ci fa, e allora che ci fa, ehi! Senza male panze, con cose di magnate che t'ha fatta ma tenga televisione 36 canali. Si parla tutti insieme su tanta capelli, ma quando scimma fuori sarà primavera, ma quando scimma fuori sarà primavera, ma quando scimma fuori sarà primavera, primavera, primavera, primavera. Questo brano di Tullio De Piscopo effettivamente è un po' antelittera in alcune cose, molto bello, un bel sound. Banzo, noi adesso in realtà torniamo in Germania però con un brano di altro genere musicale, andiamo all'inizio degli anni 90. Sì, per mantenere un po' questo filo concettuale che ci lega un po' alla storia di Ludwig o all'estrema destra, questo è il caso, andiamo ad ascoltare un brano di Die Toten Hosen, i Pantaloni Morti, storico gruppo punk tedesco, ovviamente non neonazista, ma ne ascoltiamo una canzone, ascoltiamo una loro canzone che appunto satireggia sulla storia di un giovane disoccupato che crede di trovare risposte nell'ideologia neonazista, un po' diciamo una versione in salsa tedesca del ragazzo di destra di prima, di La Russa. Diciamo, vabbè, il testo dice anche che 50 anni fa, 50 anni rotti fa, uno ci aveva già provato, però gli è andata buca. Sasha, non l'hai capito, perché Sasha è il protagonista della canzone, che si intitola Sasha ein aufrechter Deutscher, cioè un buon tedesco, un tedesco esemplare più o meno, upright citizen per dirla con i Crass. Eh sì. E questo brano fu composto, gruppo attivo dall'82, ancora in attività. Fu composto nel 91 a sostegno del Düsseldorfer Appell, un'alleanza civica partitica contro il razzismo, antisemitismo e estremismo religioso e politico. Brano pubblicato poi nel 92 come singolo natalizio, sarà oggetto degli strali del gruppo di destra di Repubblicaner, cercherà di farlo bandire, non ce la faranno e il brano raccoglierà 500.000 di marchi per scopi benefici, quindi è una storia a lieto fine. Eh sì, ce l'ascoltiamo, Die Toten Hosen. Der Sascha, der ist arbeitslos, was macht ohne Arbeit bloß? Er schneidet sich die Haare ab und pickelt auf ein Judengrab. Zigeunerschnitzel, das schmeckt gut, auf Sinti sagt der eine Wut, er isst so gern Chibac. geht, weiß wo der Führerbunker steht. Ein mieser Mann, das ist kein Depp, der Sascha ist ein deutscher Rap. Er ist politisch informiert und weiß, dass jeder Fremde stört. Und auch sein treuer Schäfer und Bett jetzt nicht ohne Grund. Denn der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Und so deutsch wie der Sascha ist man nicht nebenher. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutsch sein, das ist schwer. Zündet er die Bude an, ein jeder tut halt, was er kann. Beim Thema deutsche Gründlichkeit, da weiß er voll Bescheid. Ja, der Sascha, der ist Deutscher und Deutschland, das ist schwer. Wer so deutsch wie der Sascha ist, der ist sonst gar nichts mehr. Vor gut 50 Jahren hat schon einer probiert. Die Sache ging daneben, Sascha hat's nicht kapiert. E questi erano i Toten Hosen. Noi Banzo siamo ormai agli sgoccioli di questa puntata di Zibaldone, però facciamo un salto in avanti negli anni, all'inizio degli anni 2000, e troviamo un brano di uno dei più conosciuti rapper italiani, almeno della prima generazione, Frankie High Energy. Sì, ed è un brano molto breve, come sentirete si intitola Voci di Piazza e non è un rap ma un cut-up testuale. È una tecnica simile a quella usata dal nostro Fausto nelle ultimissime, per capirci. Diciamo che ci sono le frasi di un oratore che vengono modificate, un oratore o un comizio, per mettere in luce la volontà, diciamo, eversiva a livello legislativo dell'allora in carica governo Berlusconi, in piena continuità col piano di rinascita democratica di Gelli della P2. E il comizio dal quale tratto il materiale originale non è veramente un comizio qualunque, perché il discorso che il sindacalista della CISL, Franco Castrezzati, stava pronunciando sul palco di Piazza della Loggia a Brescia il 24 maggio 1974. Sappiamo che appunto alle 10:12 esplode una bomba che provoca 8 morti e 102 feriti, strage neofascista, che vede protagonisti il gruppo di Ordine Nuovo, che, come abbiamo visto, con Ludwig ha dei contatti, ha avuto dei contatti. E quindi andiamo a ascoltare questo brano di Frankie. Voci di Piazza. Casato in una villa principesca, oggi ha la possibilità di mostrarsi sui teleschermi come capo di un partito che è difficile collocare nell'arco antifascista e perciò costituzionale. Ci troviamo di fronte a trame intessute segretamente da chi ha mezzi ed obiettivi precisi. Sono così venuti alla luce uomini di primo piano, i mandanti, i finanziatori che senza scoprirsi possono camuffare le loro trame con tinte diverse da quella nera. Si vogliono cioè sovvertire le istituzioni democratiche della nostra Repubblica. A questo fine si strumentalizzano i giovani, i meno responsabili, approfittando dell'inesperienza, giovani, spesso ancora adolescenti, come avviene in ogni parte del mondo. Quando si vogliono soffocare le aspirazioni di progresso, di giustizia e di democrazia dei popoli. Sembra che la storia si ripeta, e cioè che anche oggi non si scavi in profondità, che non si affondi il bisturi risanatore fino alla radice del male. Banzo, ascoltando queste parole viene in mente, no? Vedendo cos'è la CISL adesso, insomma mezzo secolo dopo, con che prona il governo Meloni ai Fratelli d'Italia, beh insomma, tornasse quella CISL lì. Detto ciò, noi siamo davvero alla fine antifascista, della... diciamo. perlomeno. Sicuramente. Ascolta, siamo a fine puntata, l'ultimo trago è un po' particolare quest'oggi, no? Sì, non andiamo in giro per il mondo, non c'è un brano italiano in altre lingue, ma torniamo a Verona un po' per chiudere il cerchio con un brano che, ti dirò la verità, io avevo pensato di mettere all'inizio, poi abbiamo deciso di metterlo in fondo per non, diciamo, suscitare ambiguità. Si tratta di Verona Beat dei Gatti di Vicolo Miracoli, che è il brano che si ascoltava nei titoli di testa del film del 79 Arrivano i Gatti, che è un po' una versione parodistica e romanzata della loro scalata al successo, ed è una canzone che però non ha nulla di demenziale come altri classici del loro repertorio, come la mitica Capito, un brano che io ho sempre adorato. Beh, e ho pensato semplicemente che fosse un brano che nella Verona di quegli anni si doveva sentire moltissimo e che quindi i protagonisti della nostra storia, volenti o nolenti, probabilmente lo avevano ascoltato, ma effettivamente forse è meglio metterlo in conclusione quando possiamo spiegare questa cosa e non tracciare delle analogie troppo dirette, che per carità non hanno nessuna ragione d'essere, ci mancherebbe. E questo brano, peraltro, cioè fine anni 70, venne poi adottato dalla tifoseria dell'Hellas per esempio nell'anno dello scudetto, però parla di un tempo precedente, perché Verona Beat, lo dice il titolo, parla degli anni 60, quindi anche un po' la gioventù dei membri dei Gatti, in una maniera un po' nostalgica, un po' anche, se mi permetti, a me il brano piace molto, ma direi zuccherosa, in spagnolo diremmo un pochito gnogna, no? Con riferimenti all'Equipe 84 e i cantautori che parlavano di libertà col cuore in gabbia, il testo è di Nini Salerno, la musica di Umberto Smaila, che come sappiamo ha molta confidenza con la composizione musicale. Eh sì, e con questo brano noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo e, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, che alle 17:55 minuti più o meno tutti i venerdì sera diceva: speriamo di avervi aiutato a capire chi era davvero Ludwig. No, ce lo auguriamo davvero. Buon venerdì sera a tutti, ciao Banzo, ci troviamo venerdì prossimo. Vecchie favole di un'epoca un po' più in là, i colori di un'età, libri e musica di un mondo che nasce beat, un disco dell'Equipe, l'automobile, beato chi già ce l'ha, è quella di papà. Oggi è sabato, domani si dormirà, sogni di gloria. Beat, beat, cos'era il beat? Una scuola e una città. Beat, beat, Verona beat. Pugno in tasca e vanità. Poi rinascere, suonare in un gruppo beat. Si trova il venerdì. Fughe inutili per vedere se ci sei tu. Ginnastica in tuta blu. Diario al limite tra amore ed oscenità. Noi poeti per metà. Cantautori che parlavano di libertà col cuore in gabbia. Beat, beat, cos'era il beat? E l'America è sempre là. Beat, beat, Verona beat. La tua curiosità. follia. Oggi sciopero per la fame nel Bangladesh, dopo un'ora si resta in piedi.